una legge di iniziativa popolare regionale, cioè che interesserà solo l'Emilia-Romagna, che tende a chiedere per la massima parte l'abrogazione della risoluzione 7158 del 2018 che dava mandato al Presidente della Giunta di negoziare con lo Stato ulteriori prerogative di legge, la cosiddetta autonomia differenziata, che per me significa anche autonomia regionale, visto che hanno chiesto le tre regioni capofila almeno tutte le materie possibili e immaginabili. Per cui al di là della domanda che cosa c'è di differenziazione se chiedi tutto, o di particolarità se chiedi tutto, al di là di questa domanda, comunque sono state siglate anche dall'Emilia Romagna e ne chiede 15 che si articolano in sottomaterie, per cui hanno un impatto uguale a quella di Lombardia e Veneto. L'Emilia Romagna sigla per i poteri conferiti al Presidente Bonaccini nel 2018 con la risoluzione 7158, sigla delle pretese nel 2019 che sono ancora valide, perché il DDL Calderoli appena approvato le trasporta come valide nell'attuale legislatura in funzione dell'articolo 10 del suo disegno di legge. E siccome la nostra petizione non è stata neanche discussa con la motivazione l'anno scorso del Presidente Bonaccini e della risoluzione a sostegno presentata il 28 aprile in Assemblea Legislativa, non è stata assolutamente discussa perché hanno sostenuto che, essendo quella risoluzione da aggiornare, non era più valida e contestualizzabile, e poi alla fine però ci siamo ritrovati che la risoluzione a sostegno della comunicazione del Presidente è stata addirittura ritirata dopo le dimissioni del governo del Premier Mario Draghi, e quindi non si capisce per quale motivo quella petizione in quella maniera azzardata è stata dichiarata inutile, non è stata discussa. Questo è il motivo per cui noi abbiamo pensato fosse giusto e doveroso nei confronti dei 1.005 firmatari della petizione onorare le loro firme e onorare le firme di chi da quel giorno di luglio del 2022 informato avrebbe tranquillamente firmato, di riproporre la questione con uno strumento un po' più impegnativo, ed è questa legge di iniziativa popolare.